A Berlino, il 19-20 novembre, c'era il settimo meeting della Task Force delle Nazioni Unite per le nuove tecnologie. La Task Force è stata stabilita nel 2001 da parte del segretario generale dell'ONU, Kofi Annan, con l'obiettivo di valutare e promuovere iniziative legate alle nuove tecnologie per lo sviluppo. Questo da intendersi nel processo del World Summit in the Information Society che c'è stato a Ginevra, che ci sarà in seconda fase a Tunisi nel 2005. Infatti la Task Force ha avuto un mandato esteso proprio fino al 2005 per cercare di creare un ambiente favorevole alla discussione sulle nuove tecnologie per lo sviluppo. Come anche il processo del summit di Ginevra-Tunisi, si trattava di una riunione multi-stakeholder, cioè erano invitati a partecipare la società civile, i governi e il settore privato. Chiaramente questo ha degli aspetti favorevoli perché comunque promuove il dialogo e cerca di sintetizzare in qualche posizione credibile quelle che sono diverse posizioni. Dall'altra parte però denota anche c'è una certa difficoltà proprio per la differenza delle posizioni stesse e per la difficoltà della società civile nel farsi effettivamente ascoltare e soprattutto nell'avere i suoi principi incorporati poi nei documenti finali. Dunque c'erano 300 persone, si è parlato soprattutto di come cercare di superare il digital divide, che è appunto il divario digitale tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, e di fatto però non si è arrivati ad una posizione pratica e condivisa, anche perché comunque la task force in sé non ha il mandato di effettivamente produrre risultati, ma solo di dare consigli. Il prossimo meeting sarà in Irlanda ad aprile, sarà sull'educazione. Diciamo che queste riunioni hanno l'obiettivo di creare del terreno comune, delle posizioni condivise. Per quanto riguarda la società civile, c'è stato da una parte anche un senso di euforia, perché comunque si è visto che si è potuto parlare, c'erano degli spazi, c'era la possibilità di fare degli interventi e pare di essere stati ascoltati. Dall'altra parte però c'era anche una sorta di senso di frustrazione, perché comunque non era molto chiaro se i commenti sono stati poi incorporati nei documenti, anche perché il documento finale era già in draft, non è ancora stato pubblicato, ma di fatto era già stato scritto. Quindi si sta valutando un po' adesso come cercare di proseguire verso Tunisi, come cercare di influenzare. Da una parte la società civile sta cercando di far includere alcuni dei suoi membri in alcuni dei gruppi di lavoro verso Tunisi, come è il caso del gruppo di lavoro nell'Internet Governance, che è uno dei grandi temi da discutere verso Tunisi. Ecco, nel gruppo di lavoro ci sono dei rappresentanti della società civile che cercano di agire dal di dentro, e dall'altra parte si cerca anche di presentare una serie di contributi scritti in tutti questi processi della task force. La società civile, oltre ai giorni del summit, si è riunita in modo parallelo autonomo il 20 e il 18. Il 18 all'interno però del Ministero degli Esteri tedesco, che ospitava la riunione della Task Force, proprio per cercare di promuovere questo terreno comune, queste discussioni che sono state comunque molto molto positive, hanno riguardato soprattutto il discorso dell'internet governance e il discorso del finanziamento, del superamento del digital divide. Dall'altra parte ci siamo poi riuniti il giorno 20 per tirare le fila e fare gli ultimi commenti e decidere il cammino verso Tunisi.